e quindi adesso 3.000 euro, 2.000 euro, 5.000, del Zimilia, a Puglia che ne avanzano soldi, e due cene fai altro e basta, a me, ciao ciao, buon pranzo a tutti. Ciao, fai, facciamo allora, ciao, ci sentiamo, Puglia, va bene, va bene, magari, magari. Nato di Vittorio, quindi li alle Luca, non è così? Ah, io mollo tutto. Metto una cosa, la bella... Guarda, vabbè, la bella busta magari... A dare tanto lavoro a quelli più... Cioè, quelli che non sono lavoro, la bella... bella... Guarda di cosa, dai. A dare lavoro a quelli che non stanno lavorando, e qua ce ne sono tanti, compreso me. E poi... fare un giro di parenti, parenti più stretti e via, dai, il resto tutto a buono. Gappa, gappa, riprendi Giulio. Ok, vabbè, quanti soldi che si potrebbero fare avendo veramente una vincita miliardaria. Purtroppo, mi sa che soprattutto qui a Sassari sono vincite veramente rare, oh, non si può mai dire, però, oia, a così, a memoria, non è che mi ricordo grandissimi vincite qui a Sassari. Vabbè, 100.000 euro in effetti a Regione Claudio non è che ti cambiano la vita, oh, diciamo che un minimo di soddisfazione già te lo danno, perché ti puoi comprare almeno un appartamento, per chi non ce l'ha, però non ti cambierà affatto la vita. Al massimo ti possono far risparmiare 400-500 euro, non 600, già affitto tutti i mesi per chi non ha la casa, tutto lì, vero qua. Ci sogna di notte, si può sognare anche di giorno, mentre uno parla, non è detto. detto che non si può sognare, quindi va bene così. E vabbè, io sono contento sempre che i soldi vadano ai poveri, mai ai ricchi, perché i ricchi che ci sono, sono tanti, ma sono tutti sacrifici che hanno fatto i genitori. Uno che diventa ricco oggi nel mondo del lavoro, ricordatevelo sempre, non è un ricco netto. No, io guarda te qua, guarda, calamari, di tutto, polpi, di tutto, mamma mia, gli affami. Giulio? Sì, vabbè. Comunque io prima di tutti metto la salute, poi metto la famiglia e poi metto i soldi. Questa è la mia generazione alcolica. Diego, conosci Diego? Certo, li conosco tutti, tutti qua. avanti, non ci sono dubbi, sia i figli di Gabino, Gabino compreso, sia i figli della buon'anima di Fausto, tutti, conosco tutti quanti, no? Tutta la famiglia, insomma, ecco, Tessa, buon'anima che è morta da poco, tutti quanti, conosco tutta la famiglia, anche il padre ho conosciuto, faceva il video urbano, no? Poi lo abbia fatto anche pasticcere, eccetera, eccetera. Amicissimi di famiglia, figurati d'estate, io d'estate andiamo a casa a fianco a loro, se mai siete sulla patavola. Famiglia, se ti sono chiesto, altro che subisco dove me, ci sono andato tantissime volte, ci sono andato, certo, non c'è problemi, è una delle cabine più vecchie che c'è lì nella zona, forse non addirittura la più vecchia, e a Mario Sanna lo conosci, il cognato di Giulio, suppongo di sì. Caspita, Mario Baffone non lo chiamiamo. Mario Baffone, sì. Ci conosciamo molto amici. Ci conosciamo molto, ma molto bene. Ok, tra l'altro abitando nello stesso palazzo di Giulio, no? Di Giulio, lo zio di Giulio. Ok, va bene. Le prende fai girare, va. Mi bene per voi. Comunque ho capito che conosci le persone che conosco molto bene anch'io. Sono contento, va. Certo, sono tutte persone a modo, proprio le persone come si deve. Uno meglio dell'altro, bene, mi dispiaciuto tantissimo per Fausto, perché eravamo tanti amici, ci vedevamo quasi tutti i giorni, dato che lui veniva sempre a fare le mie medie da me a salutarmi, anche perché gli facevo tanti auguri, eccetera, eccetera. Ma oltre a quello c'era una particolare amicizia, capito, e proprio profonda da quando eravamo ragazzini, di conseguenza. Ma non solo con me, anche con i miei fratelli, eccetera. Dunque, vabbè, è andata così. È stato sfortunato nella vita, morto solamente a 62 anni. Pazienza. Riprendi, vai, fai girare. D'accordo, riprendi tu. Ah, non fate parte di essere ancora sotto io. No, con Giulio, a parte con Giulio per questione di parentela, che è il mio cognato, ma con Giulio, con l'altra persona che sta dicendo tu, il meccanico, siamo amici intimi, nel senso, tutto l'estate siamo già, a parte io ci vado da più di 20 anni di lì, ma siamo già 2 anni consecutivi che siamo affiancati, la casa una affianca all'altra, per cui tutto l'estate ce lo facciamo insieme, a cena, non dico a pranzo, qualche volta anche a pranzo, ma le cene sempre di cose eravamo di lì, di puntino diciamo. Buongiorno, ciao Giulio, ciao Padrazzo e ciao Torre. Ciao Mario, buongiorno. Ciao Mario. Ciao Mario, sono tu. Sì, sempre quello, vabbè, prima salutate a Mario, poi conoscevo un'altra cosa, Roberto, vai. Ciao Mario, ben sentito, non ti dico bene tanto che tu sarai qui a giocare nel mattino, comunque c'è una voce un po' affondata, diciamo, stanca almeno, è vero? Tanta ragazza. Senti Giulio. Ok, riprendo ancora io. Sì, ti stavo dicendo, ma sempre quello, io conosco anche tuo padre da quando eravamo ragazzini, pensa che si giocava nello stesso campionato, perciò non è un problema, forse lui non si ricorderà più di me perché sono passati tantissimi anni, però giocavamo nello stesso campionato, anche se lui era forse qualche anno più di me, dunque, insomma, diciamo che è così, in una certa maniera siamo molto vicini, no? Con te, sono molto vicino con te. Capo, no, mio padre probabilmente penso sia più grande di te, nel 33, tu hai forse del 42, comunque probabilmente avete giocato negli stessi campi, loro andavano a giocare alla Colonia, non è così? Esatto, sì, è vero, quando allora il campo era giù, cioè praticamente dove c'è la strada adesso, la strada che porta per la Budi, diciamo, luci gialle, dai, ecco, allora lui giocava lì, ma io poi ho giocato anche nell'alto sud dove c'erano stati i figli e poi in altri campi della Sardegna, eccetera, eccetera, vabbè, ma quello è tutto un altro discorso, ma io appunto a lui, a mio padre l'ho conosciuto proprio lì, sì, in effetti un po' qualche anno più di me, lui ce l'ha, per quello, lo conosco molto bene, lui sicuramente non si ricorderà, anche perché io ero un ragazzo allora, lui era un po' più grande, però sono convinto che se mi vede si ricorda, guarda. Anche io sono nato al centro storico perché probabilmente ci siamo conosciuti anche da bambini, o meglio lui invece è più grande, nella zona di San Nicola, Monica Cappuccini, eccetera, eccetera, Santa Pollinare, eccetera, eccetera. Gappa, facciamo riprendere a Mario adesso, se no si monopolizza il canale. Vai Mario! Mario, ti ha salutato appesi, vabbè, anche lui è andato a fare là. Allora, anche lui è andato a me, sono venuto a vuoto a vuoto, ho sentito a voi, e sono andato a salutarvi. Fai una bella mangiata, ti riposi qualche ora, voi ti ricopri bene le cose, dai, se no ti fai a pensiero, va bene, poi magari per domani sei troppo affaticato. Domani vuol dire che andrà più piano, allora voglio che ti dica, non mi posso fare il 4 no? Gaffa, gaffa, rimane a te che sono la salute, non si scherza. Ok, va bene, a me mi hanno chiamato laggiù, devo lasciarvi purtroppo perché devo andare a pranzare. Vi ringrazio per il cuore, quasi tutta la mattina abbiamo fatto. Ciao Roberto, salutoni, ero gentilissimo, mi ha fatto piacere ascoltarti e dialogare con te, come mi ha fatto piacere sentire Claudio, che lui è rimasto all'ascolto, probabilmente è impegnato col computer. Ciao Mario, anche a te. E ciao anche alla Gianni, che all'ascolto, a tutti gli altri, Manolo, e forse ci sarà anche Dio Maria, non lo so, un po' tutti insomma, ecco, Luca soprattutto del Monte e anche dell'altra parte, i due Luca insomma, saluto a tutti per me, con le che vanno a pranzare, vai, riprendilo bene, alle prossime. Ciao Giulio, bene, buona ricarica, buon tutto, a seguirci in altre occasioni, ciao ciao. Ciao Giulio, buona carica, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime, ciao ciao. Vado, mi prendi. Tu, non c'è nessuno, chi c'è oltre a Mario? Tu, mi prendi su Mario, dai. Sono più scappato, allora, se vuoi è scappato via a tutti. A che tu mi viene la stessa? Non so, qua c'è una confusione, si parlava uno con l'altro, non dico brutto, ma qua ci siamo andati vicini un paio di volte. Adesso tu, ma le cose tutte stanno per andare a caricare, anche io tra poco vado anche io. E il caffè anche io, mi sono già la pentola sul fuoco. E poi mi corrisco e mi faccio tutta la sera con il cazzo. E sai bene, dai, dai, io sto cercando di non uscire di luce in modo da essere tranquillo domani, perché di domenica veramente mi potete sentire, perché io sono sempre impegnato per questioni di sport, diciamo, di calcio. Per cui io rimuovo la luce, sto tutta la giornata libera, per cui sto cercando di passare il tempo, diciamo, con delle persone che fino adesso sono comportate più che bene, è un bel discorso, eccetera, eccetera. Gaffa, gaffa, è d'altronde. Non è che se ti passa la foglia la mano riesce pure a giocare a pallone, se vuole il tempo suo. Se non tu finisce che poi la mano non vanno manca a lavorare. Gaffa, gaffa, no, mi ha fregato la settimana scorsa, io sono rientrato lunedì e stavo male, poi martedì notte sono andato a fare l'allenamento e ragazzi c'era un'umidità allucinante, ma se ribatto, adesso io ho tentato di andare, ho riuscito tutta la giornata, io mi stavo male, allora in pranzo me ne sono rimasto e l'ho fitti. Mi stavano chiedendo tutti, figurati, è come quando c'è la febbre alta che vuoi fare, però non fa per più. Non sono in quelle condizioni, sono migliorato di tantissimo, sto facendo anche aerosol, sto prendendo anche fiammaturi e mi stanno facendo bene. Speriamo che non mi succeda nient'altro domani. Caffa gaffa, tu ti sei rimasto riguardato. No, io mi sono arrivato adesso dal lavoro, abbiamo finito. Adesso a casa, mangio. E poi mi metto dentro la culla e mi guardo un po' di più. Tutti i casi riesco ad andare a chiuso. Ciao, ciao, fai bene, ragazzi, ci vuole un po' di rispondo, no? Non è mai troppo, senza esagerare, se no diventi mandrone. Infatti, se sei stato mandrone, oggi mi sono stato in casa, gocato, tranquillo, a passare l'aria. Tu sei andato a lavorare, perché ti vuoi comprare un apparato, dice, tutti i soldi mi fanno comodo per certe cose, sbaglio? Ma perché questo che stai sentendo ora, quello che ti pensi che sia? Ma te lo sei comprato perché? Questo mio, e allora? No, scusa, non lo sapevo, pensavo che era in prova, in prestito da qualcuno, tipo in seguito dell'altro giorno. No, questo è mio. Ragazzi, uno sopra l'altro. Cava, tu non hai neanche problema, allora stavo andando a tuo figlio e te ne esci da mezzo, va? Ecco, ho usato perché Mario. Un altro baracchino, 707. 707? Ce l'ho anch'io quello. Hai capito quale, sì? Devo dire il Vita Miracoli di quella radio, tanto che ce l'ho. Direi giù. Ma no. Uno soddisfazione con la radio. Quello là è così. Allora, se ne preso una, poi, più là, cioè, arrivati a un'altra, che problema c'è? Cioè, non c'è nessun problema. Via, però, lo dico per esperienza, è un buon ricevitore, ma non è un buon trasmettitore qua. Per sentirlo andare bene, quella radio devi trovare il male amatoriale, qua non dice niente, proprio niente di niente, tanto è vero che è lì fermo, io ce l'ho, ottimo ricevitore e ottimo trasmettitore per le bande amatoriali, per la M non ha niente di nulla. Uno direttamente e via, se tolse rubando tutti i nostri ponti, stanno facendo un casino nero. E soprattutto stanno marcando molto, ma molto stretta, attenzione. Ve lo dico per chi vuole ascoltare, poi ognuno libero rispetto e fare ciò che vuole. Stanno battendo molto i 45 metri, Stanno battendo molto i 45 metri. Attenzione perché la banda dei 45 metri, la cosiddetta, la 6000, 6005, è una banda dell'aeronautica militare, quindi non si può assolutamente entrare, è vietatissimo entrare. È vietatissimo entrare. Siccome già da qualche anno l'avevano proibita, qualcuno ha preso colpi grossi, gente che conosco personalmente, ha preso colpi grossi veramente. Quindi attenzione perché è lì che scatta la penale. Quello è violazione dell'articolo 36 delle telecomunicazioni. Quindi lì tu stai parlando in una banda, è come vai a parlare nella frequenza dei carabinieri, quella è una banda di Stato. Quindi non si può assolutamente parlare. Qualcuno lo capisce, qualcuno lo capisce e continua a fare i fatti loro. Quindi stanno guardando queste leggi per far sì che si riesca a autocontrollare tutto il sistema delle telecomunicazioni. E perciò sarà cura di chi ha delle radio, cura di chi ha le licenze, sapere anche le regole. Infatti sicuramente metteranno un comunicato sulla gazzetta ufficiale dove diranno quali sono le cose che dovranno essere rispettate. Questo è quello che mi hanno detto la Cagliari ultimamente, però non è, a me non mi tocca da nessuna parte, né la destra né la sinistra, perciò no, io lo sto dicendo a voi, come non Mario, tu sei in possesso dell'SWL, tu devi essere in possesso secondo i requisiti che la legge sarà varata sulla legge, non è perché sei in possesso dell'SWL hai diritto di tenere l'antenna circondata. Ci sono dei requisiti di legge che ancora non sono stati approvati, quindi si vedrà che cosa scrivono, che cosa vogliono per avere, perché può darsi anche che mettano in condizioni la gente di avere determinate cose e non usare determinate cose. Adesso bisogna vedere come hanno fatto praticamente quando hanno unificato le patenti amatoriali, che hanno eliminato la telegrafia. Questo è quello che vogliono fare poi. Tra dire e fare c'è di mezzo al male. Bisogna vedere quando, come e perché lo faranno. Scusate un attimo. Guarda. No, l'ho messo quadrato, lo interrompo per vado a ricaricare io. Ci sentiamo in più tardi. Ciao Claudio, buona conversazione del Como. Con Mario ci sentiamo con c'è anche a te Mario. Ciao Roberto, buona carica, buon tutto. A casa mai c'è di 60 euro. Vai Claudio. Altrimenti sì, cioè, no, non me ne frega nulla, e poi anche per averlo. Quello là con 140 si è fatto un medellino e più per lui. Prima o poi lo troverò un altro buono anch'io. Non è detto che mi fermo qua. Accesa, guarda, a coso, addirittura. Sì, bella da vedere, ma no, non ha niente a che fare con quelle che dico io. Io ho il padre, il figlio e la sorella di quello, faticò. È bellina, bella radiolina, si può utilizzare. Però c'è da fare alcune cose, perché la radio non mi piace come sta uscendo. Forse quel microfono non è abbinato alla grande, però si potrebbe fare di meglio. Chi ce l'aveva prima, qualcosa in più riusciva a uscire. Vabbè, mamma, non è che mi interessi di fare chissà che cosa nel qua. Cioè, io non voglio rompere, non l'ho fatto da nessuno. E parlo radio, diciamo così, per farmi compagnia quando sono da solo, che vieni la sera, sei stanco al lavoro, ti siedi nella sedia, accendi e scambi quattro chiacchiere con i colleghi, diciamo colleghi di là, colleghi del radio sono altre, tutto lì, poi insomma la frega niente. Ottimaglia. La smaglia, la maglia di Butelli, la fogo. Ma io ti ho mangiato un pezzo in faccia. Basta, la giugata, tanto buono, basta, e tutti andiamo. Devi andare, Luca. Ah, metti il gocco un poco. Ora poi faccio la barba, c'è la barba lunga. Barbetta lunga. Ci sentiamo. Vedi un po', già sono in radio stasera, io se vuoi fare qualche regolazione, qualche prova, la facciamo, ok? Tutta pagata, ok, la stasera, buona carica, e buon proseguo di serata, ce la riascoltiamo, ciao. La sala ce l'hai o la carica? Pranzo e cena. Ah, c'è un uomo allora. No, negativo. Qualcosa di più delle unghie, un suleggialo, Vedi, 50 lire, 50 euro per ieri sera e 50 euro per stamattina. Eppure il resto è sempre con quella paga là, capito? Ma vabbè, ma così è più male, allora. Già va bene, già va bene, dai. Magari anche l'avrei fatto, sabato mattina e domenica mattina avrei la fatto. L'anno, dalle 8 all'1, anche se per mezza all'1 non c'è problema. 50, 60 euro, pure 70, lì. Perché domenica. Ma di più non se ne danno. Aspetta che c'è già la pasta, beh, se è cotta. Vai, vai, vai, vai. Cava, cava. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao, guarda, dopo, ciao. Ci sentiamo. Anzi, vabbè, dai. Comunque, tra le 5 metto acqua, Poi non so il tuo, se mi dirai. Anche domani. Vediamo. Vediamo se piove. Perché non è giusto, perché in radio tu lo sai, ci possono essere bambini piccoli, ci possono essere donne, via dicendo. E non bisogna farsi vedere quello che non siamo perlomeno. Magari è scappata volontariamente, quella non utilizza, io so di lei, non so degli altri. Piacere quell'altro e via dicendo, però sono discorsi che noi possiamo pigliare in qualunque modo, in qualunque momento, capito? Però non è detto che uno a baracchino si deve mettere a dire il rosario, no, per carità. Allora, fatto per farci compagnia, per sbagliarci un'oretta e per parlare del piede almeno come potremmo fare dappertutto, capito? Sì, vabbè, ho cosa per comunicare, tutto qua, tra due chiacchiere. Però Mario, l'altra volta guarda c'era Franco, c'era Claudio, Adriano, io, poi non mi ricordo chi c'era, guarda, ho fatto un casino, un divertimento, parlando uno sopra l'altro, qua, su qui, qua, che se ci deve essere del giorno, un casino ma più nero, in caluscia. Allora niente, ho detto, ma serio, che tu un casino della mano dei ronchi, schiaccio, quanto musica, neanche un minuto, mi proprio, fai un minuto, avanza, ma ne manco qui da un minuto. Allora dobbiamo fare continuo oppure con l'altro, tutti muti e poi niente, già abbiamo ripreso di nuovo a parlare. Ma guarda, quel giorno era veramente divertente. Capo, ma Marattino deve essere una cosa per gli divertiti, cioè ridere, scherzare, fare battute, quello, l'altro. Te l'ho detto, non è che sia una disciplina che deve seguire quel tipo di disciplina, boh. Non è vero, quindi noi possiamo fare tutto quanto per quello che vogliamo. Giustamente non possiamo rompere le scatole agli altri. Tutto lì. Io non la rompo a te, tu non la rompi a me. Cioè, se stiamo scherzando, scherziamo. Se stiamo parlando di cose serie, parliamo di cose serie, io dicendo. Capito? Non è che uno... Giustamente, il rispetto se lo vuoi lo devi anche dare. Poi se non lo dai, allora è diverso. Perché io mi ricordo tanti anni fa, c'era qualcuno che diceva tu in questo canale non ci parli, pure era importante una rapido, se sei figlia, era importante rimanere, tu stai ancora lì. E tu dici sul canale sei tranquillo che non devo avvitare, se ne vuoi dire andiamo là sul canale, poi diceva tu dentro non vuoi, se dici sul canale non ti faccio la verità, perché erano bottiglie di un pizzero, e poi non servivano a niente perché. Uno mette la porta anche con le latte che se ne va a lavorare, non è detto, vabbè, hai tenuto il canale occupato per tutto il giorno e cosa hai fatto? Niente. Beh, infatti, no. Sì, comunque non mi ricordo anni fa, c'erano tante portanti, tante. Ma ultimamente anche, prima di rientrare tu, Mario. Vabbè, non ci vuoi fare, ma purtroppo ogni tanto bisogna spaziare col baracchino. Giusto così, ma poca roba, una mezz'oretta, vuoi 20 minuti o anche vuoi 10 minuti, scappiare e poi si ritorna alla normalità, tutto qua, ognuno dice la sua. Qua il giorno era un casino, veramente un casino, uno parlava sopra l'altro, non si comprendeva più nulla, poi alla fine niente, poi abbiamo detto, no, oggi non va bene, ho messo musica, no, non va bene così, ma scherzando, non è che si è arrabbiato, ci mancherebbe. Ma quel giorno veramente era micidiale, era proprio un casino, Mario, un casino. E succede, davvero, purtroppo succede. Vabbè, la mia pasta è pronta lì. Luca, anche io vado a caricare, poi dopo mangiato. Ah, alla tocchettina a che ora gioca l'Inter? Mi sembra di giocare a 3 sicuramente, non è da 3. Ciao. Ah, facciamo una carica, ciao, saluto la Davide, anche una carica a lui, ciao.